un microfonino di quelli piccolini, così lì ci metto la capsula, lo metto in macchina e poi cosa faccio? Li collego un congegno che a distanza traccia il pulsante e entra la portante e mi faccio, mi sa che mi fabbrico un microfono tipo quello wireless, così sto mezzo ingegnando, sto ingegno. Ma scommettere che lo faccio, e esce come porta. Ma lo metti in dubbio, tu. Quando ti ingegna, ingegna. Se ti va, fallo. Sto la pizzeria, l'ho già visto. Costa, c'è il telecomandino, c'è. Costa, mi pare, 16 euro. Tanto nel mio più 4 c'è, li faccio le connessioni. Li faccio. E poi cosa faccio? Li collego. Con questo congegno track che mi fa entrare la portante, capito? Quando io schiaccio il pulsante e gli porto un congegno questo, che tipo il microfono che c'è, risparmio anche 80 euro perché il microfono c'è, ma se me lo porto io da nel mio BB4 vecchio c'è una roba a voi. No, non lo faccio, non so cosa dirti a te. Io sono un inventore pazzo quando mi gira. Inventa, è sempre bello inventare. Aspetta un secondo, adesso voglio fare una prova, 2 minuti. Allora, in pratica stacco l'antenna del VHF, aggancio quella del 27 e vi chiamo in FM. Passate in FM tutti e due e così mi date un controllo, ok? Così anche distorto esco. Distorto? Di radio come esco così? Distorto o bene? Tagliene un poco di meno. Stai uscendo a tratti. Ah. Non lo so quanto mi è tenendo dalla radio. Ho detto se sto uscendo distorto oppure se va bene la radio. Così mi l'accetto. Un po' di... così fa. Forse, ma quello però dipende anche da me perché sono proprio vicino. Magari un altro ti sente meglio. Al massimo mi dà, invece la bassi naturalmente è diverso. E così come va di radio. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Bene, bene. Perché sto guardando in diverse posizioni, lo posso mettere così è buono, mi dà 84. Perché così basso di radio, Antonio? Ma scusa, va meglio? Meglio adesso sì. Quindi vi siete sovramodulati durante tutto. E ho detto che era basso il radio, Antonio. Chi se me l'ha toccato questo delinquente a me? Cosa ha detto? Che me l'ha toccato il mio migliore sicuramente. Ebbene, io passo a passo, devo giù. Perché devo alzare il volume, perciò devo, cioè, abbassare, siamo forti. Guarda, va bene. Adesso sì. Quindi sto provando per il minaretto. Come sta andando di radio? Buono, accettabile. Buono, guarda così, adesso io aumento di watt. Aumento appena. Vediamo un po'. Guarda adesso. La radio chiara. C'è qualcuno che ne FM. Alessio. Se mi rimane a 4 ore un casino. Tony, guarda adesso con questa portetta come va la radio, se distorce o non distorce. Se è stato roba. Antonio, te ne vai a fa culo, sei in FM. No, Più sicura, più. Ma non è che mi bruciano i dubbi da qui, che mi si sciolgono. fatto le nostre show, l'ha fatto anche lui, l'ha fatto tranquillo. E dice che è molto buono. Vabbè, mandami la foto qui, andrò dalla drogheria P a sapere se ce l'hanno. Ok, io te l'ho mandata. Adesso ti è già arrivato. Vabbè, ma è dentro il telefono in carica, capito, lo guardo dopo, dai. Oggi non ne ho voglia di uscire. Niente, sono passato qui cipressi, perché ho fatto due punti a sopra la notte, ho detto, ma 5.75, vado là, 11.50, è in casa di mio, e poi fare il crano, ho giocato altri tre numeri, altri sei numeri, altri tre, io, ma speriamo di beccare i sei numeri, sai cosa vuol dire, oltre 100 milioni di euro, magari. Vabbè, per chi gioca. Vincere è più facile, chi non gioca non può vincere. Beh, proprio come ti dico, se c'è una fanfara di trici, in domani non è incisa, già se una fanfara di trici, alla fine se c'è una si è cavato, ma se non giochi la sfida come faccio a farti fare i trici? Comunque, detto, io stasera zuppa calorese, tirolese. Tirolese? Come sai che sei zuppa tirolese? Ci sono delle verdure, fagioli, un po' di tutto, dai. Come ti viaggia a me fruscio. Ma l'hai fatta tu o l'hai comprata già fatta? No, l'ho già comprata fatta, capito? Ah, no, pensavo che la doveva agitare la roba. Non c'ho io con la pazienza a comprare tutti quei prodotti, piano piano poi cucinare da bla bla bla bla bla bla. È un casino. Questa è già bella pronta, la prato, metti il microonde, scaldi, vai e poi si magnetti. Ma ci sono i conservanti in queste cose qua. Già, lasciamo perdere i conservanti, perché qualche rispiriamo è più pulito, lasciamo perdere, dai. E aria buzzinuccia, e ci stanno aspettando vivo poi il governo con le tasse, la mazza in guardia. Fra poco ci fanno pagare anche l'aria che respiriamo, anche se sporca. E tu pensa quanta gente poi scorrice e noi respiriamo, paghiamo anche quello. E quello è poco male, tutto naturale. Quello è poco male, tu lì. Che brutto è l'inquinamento atmosferico. Le piogge acide, queste cose sono inquinate. Ma te immagini che tu adesso prepari 2000 bottigliette e ci scorrigi dentro e metti il profumo di Lourdes e lo sai quanta gente lo compra. Perché dai, gli atti liberi nei buchi in mezzo di cosi. Antonio, ci sì, non c'è più Antonio. Sto entrando in doccia. Ci sentiamo, sto entrando nella doccia. Ok, d'accordo. Buona docciata. Avanti già. Prima l'ha fatta, ma mi lascio, lo sta facendo lui il bagnetto. E il bagnetto, che dici, che è mirolito, vedo? Il bagnetto il bambino ha fatto. Bambino sì, ma tu non è... Lui è bambino. Allora, vedi? Ehi, stai entrando il telegiornale, mi guardo la TV e il telegiornale e mi sto mangiando, che c'ho fame, che domani mattina mi devo alzare presto ancora a travagliare. Ok, dai, ci sentiamo, ciao ciao, stai bene. Un bel bacione a Taizo. Ciao ciao. Ciao ciao. A me mi puoi baciare tu. No, non si scherza. Ciao, sono diventato io con Giovanna. Che mi chiamate? Vabbè. Alle 25 ho domande, state chiudendo tutti e due, non c'è problema. Ciao Alessio, ciao Torino, ciao la tua amici che sono all'ascolto, dai, correti anche per me, c'è ciao. E io, alle prossime, statemi bene tutti e due, dai. Okay.